ti assicuro che non si scordano. Sono stata nel paese che non c'è, ho pensato di tornarci insieme a te. Perciò stammi ad ascoltare, che ti voglio raccontare quel che ho visto nel paese che non c'è. Giù.